dare alle proprie competenze professionali alcuno sfogo positivo. Ecco, non mi sembra che da nessuna di queste due ipotesi ci sia motivo di compiacersi. Nel 1945 Carlo Levi pubblicò Cristo si è fermato a Eboli, antifascista torinese, più tardi iscritto al Partito d'Azione e più tardi ancora comunista. Levi era stato condannato al confino in un paese della Lucania e lì aveva scoperto quella cultura contadina di cui, cercandone la chiave di lettura più efficace, tesse l'elogio nel romanzo. Quando Levi dice che Cristo si è fermato a Eboli, vuol dire che non è andato più in là, che si è ben guardato dall'inoltrarsi più in là, che si è fermato, ovvero dove dice proprio lui, la strada e il treno abbandonano la costa di Salerno e il mare per addentrarsi nelle più desolate terre di Lucania. In quelle terre, almeno al tempo in cui vi ha vissuto lo scrittore, non era ancora arrivato Gesù Cristo, né il tempo, né l'anima individuale, né le speranze, né il legame tra la causa e gli effetti, la ragione e la storia quella con l'S maiuscola. 33 anni dopo, nel 78, il cinema ci ha ricordato Cristo si è fermato a Eboli, perché Francesco Rosi ne trasse un film dove la parte dell'intellettuale antifascista che si compenetra la miseria contadina e la sua cultura è sostenuta da Gian Maria Volonté. La premessa è necessaria per raccontare tutt'altra storia, storia di linguaggi e del modo con cui certe soluzioni linguistiche permangano a dispetto dei parlanti e della loro consapevolezza, permangano come calchi che impongano la loro forma nell'inesausta catena di montaggio del parlare. Parliamo allora di campionato di calcio. Campionato di calcio dove, come è noto, allineano squadre più potenti e squadre meno potenti. Diciamo pure che nel campionato di calcio per lo più le cose vanno come nella vita e che, a prescindere dai meriti che non interessano proprio a nessuno, le squadre potenti sono sempre le stesse. A loro tocca vincere come ad altre più o meno tocca perdere. C'è chi, quasi per diritto divino sta sempre in Serie A, e c'è chi per torto ancestrale, diciamo così, sta sempre in Serie B o in quella Serie B da dove, giusto per il godimento dei potenti, ogni tanto viene tratto fuori per poi essere violentemente ricacciato lì dentro. Così vanno le cose al mondo. Bene, o meglio male, e quest'anno fra i tapini in lotta per la retrocessione, appena promosso in Serie A, ha promosso proprio quest'anno, è già lì che lotta per rimanerci, c'è anche la squadra di una simpatica cittadina toscana, di Empoli. Ma nel settembre scorso si dà il caso che l'Empoli ospiti la Lazio. E per le note contraddizioni in seno al capitale si dà il caso che l'Empoli vinca 1-0. Proseguiamo. La domenica dopo la Lazio torna alla vittoria. Il giornalista Galeazzi, dalla tribuna eminentissima di 90° minuto, commenta: allora la Lazio non si è fermata ad Empoli. Non basta. Passano i mesi e prosegue il campionato di calcio. Domenica scorsa c'era Empoli-Udinese, l'Udinese era terza in classifica. 1-0, vince l'Empoli. L'indomani la Gazzetta dello Sport titola: l'Udinese si è fermata ad Empoli. Ora, quel che è accaduto è evidente. Quattro lettere uguali, la E iniziale e la Oli conclusivo, no? Sono stati sufficienti per far emergere dall'enciclopedia scritta nei neuroni dei giornalisti il vecchio sintagma. Perdere in campionato significa fermarsi in classifica, non fare punti. La Lazio e la Sampdoria hanno perso a Empoli e quindi lì si sono fermate. Sembrerebbe che vi sia quanto basti perché il vecchio titolo del romanzo di Levi, trasformato in modulo, trovi le condizioni, diciamo, per una sua nuova applicazione. Ma le cose non stanno semplicemente così. In effetti, a ben pensarci, la metafora è più giustificata ancora. Perché? La Lazio e la Sampdoria, e l'Udinese in quel caso, sono squadre magari non potentissime, ma di certo che sono molto più potenti dell'Empoli. Rappresentano allora la controparte del Cristo del titolo di Levi. Sono il valore in rapporto al disvalore. Implicito nella metaforizzazione è un giudizio nei confronti degli elementi in gioco. La debolezza del vincitore e la forza dei vinti. Il medesimo paradosso, il medesimo scandalo espresso dal comunista Primo Levi allorché rappresenta Cristo come un treno e i limiti del suo Vangelo come una rete ferroviaria. Il giornalista Galeazzi è anche quello che quando il Bari ha vinto a San Siro contro l'Inter, contro la grande Inter, con un gol di Masinga il 18 gennaio scorso, ha sintetizzato il fatto nel modo seguente. Masinga cattura lo scalpo dell'Inter. Sempre a proposito di ciò che nell'inconsapevolezza del parlante tradisce il linguaggio, di valori ben nascosti e di cadaveri nell'armadio delle coscienze beate, va da sé che Philemon Masinga è un giocatore sudafricano, ovviamente nero, cioè proprio quel tipo di persona, per i nostri giornalisti sempre pronti, tanto democratici e tanto contrari alla violenza, proprio quel tipo di persona che può ambire, per l'appunto, a catturare scalpi.